Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È qui con me, ciao Chiara. Ciao Federico, finalmente, buonasera a tutti. Per la prima volta abbiamo intervistato un Neanderthal, non è proprio così però. Beh, però sentiremo la sua voce, certo. Senz'altro. E poi parliamo di idroponica, intanto spieghiamo che cosa sia e poi vediamo come abbinarla agli allevamenti di pesci e anche ai supermercati. E infine, il Festival della Scienza di Genova si è appena concluso, il tema generale era i segni e noi abbiamo trovato un segnologo, un segnista. E da lì partiremo. Segnalibro, non lo so. Settimana scorsa vi abbiamo parlato della mostra Homo Sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana, che è appunto in esposizione al MUDEC di Milano fino al 26 febbraio 2017. E poi Federico, tu incuriosito sei andato a visitarla anche tu. Esatto, c'è un marchingegno, un microfono dentro il quale tu parli e lui ti trasforma quello che hai detto come se l'avesse detto un Neanderthal, e quindi io ho fatto il Neanderthal oggi e adesso l'ho provato, gli ho fatto dire due cose. Ieri per prendere quel bufalo mi sono fatto male alla caviglia. Certo che se avessi una K-47 Kalashnikov sarebbe tutto più semplice, no? Portare a casa la bistecca. Certo che se avessi una K-47 Kalashnikov sarebbe tutto più semplice, no? Portare a casa la bistecca. Ad Alessandro Capozzo di Limite a Zero, che hanno costruito questa installazione, ho chiesto com'è che esce questa voce di Neanderthal, perché hanno tentato di ricostruire appunto quella che poteva essere la voce di questo nostro antenato. Esattamente, pare che non fosse in grado di esprimere, di pronunciare alcune vocali, in particolare le I che necessitano un allungamento appunto della laringe e alcune consonanti tipo le C e le G dure. Con un tecnico del suono italiano avete fatto un algoritmo che elimina? Sì, assieme a Luca Mucci abbiamo creato un software che lavora con due modalità distinte. In una prima fase elimina queste vocali, soprattutto le I, e i suoni consonantici di cui si diceva prima, creando una lavorazione intermedia che però risulterebbe un po' svuotata, un po' povera all'interno. A questo punto abbiamo ibridato il risultato con una serie di campionamenti che per carattere, timbro e altezza corrispondevano ad alcune caratteristiche richieste dagli scienziati, insomma. Così facendo siamo riusciti a ottenere un risultato abbastanza, diciamo, verosimile che si riesce a sviluppare in tempo reale. E la gente, soprattutto i ragazzini e ragazzine, parlano dentro e si divertono come dei matti. Esatto, i bambini si divertono come dei matti. Ma se questo è un gioco divertente, intelligente, invece queste ricerche su come si emettevano i suoni negli animali, noi compresi, che non possiamo più sentire, invece c'è dietro della ricerca. Sono fondate, sì, sì. Sono fondate. Qui questa sera abbiamo qualcuno che ci spiega queste cose. Raffaele Sardella, intanto benvenuto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Lei insegna paleontologia al Dipartimento di Scienze della Terra alla Sapienza di Roma e chiediamo a lei di raccontarci quale fosse la fisionomia, quali fossero le caratteristiche della struttura ossea dell'uomo di Neanderthal che gli consentissero appunto di emettere quei suoni, di avere quella voce che abbiamo appena ascoltato. Ipotetica, insomma, voi fate ricerche sulle laringi di una volta. Certo, diciamo innanzitutto cerchiamo di trovare gli elementi dello scheletro anche nei termini più piccoli, più significativi, che sono importanti, però un osso piccolo come lo ioide, che è attaccato sostanzialmente alla lingua, consente all'uomo di articolare le parole esattamente come stiamo facendo noi in questo momento, e le ricerche dettagliate degli ultimi decenni hanno fatto capire che anche l'uomo di Neanderthal ne possedeva uno, un po' diverso da quello dell'Homo sapiens che siamo noi, ma comunque in grado di fargli appunto pronunciare dei suoni che sono cruciali nello sviluppo di un linguaggio. Una delle caratteristiche che molti studiosi mettevano, come dire, in campo per spiegare il successo evolutivo del Sapiens, tra le varie cose, era quello di poter articolare meglio i suoni, avere un linguaggio più complesso e quindi riuscire a trasferire meglio le informazioni, esattamente come stiamo facendo noi in questo momento, e quindi avere un vantaggio sul Neanderthal che invece sarebbe stato incapace di farlo. Invece oggi sappiamo da questi nuovi studi che lo Ioide ce l'aveva e quindi il linguaggio, come avete fatto sentire, era un po' diverso, però infatti la forma diversa di quest'osso determina appunto l'emissione di suoni ovviamente diversi da quelli che emettiamo noi, però insomma era il primo linguaggio, loro si capivano, comunicavano assolutamente. Così assolutamente, e quindi poi capire questo fa capire però come anche un elemento dello scheletro così piccolo sia fondamentale, abbia delle implicazioni notevoli. Certo. Questo chi fa ricerca sul campo è tutto attento a recuperare ogni piccolo elemento, quindi quando si fanno gli scavi si devono fare con grossa attenzione, con una metodologia molto scrupolosa, perché elementi di questo tipo poi ci aprono degli scenari così interessanti. Io so che si è arrivati anche a studiare i brontosauri, che avevano quel collo lungo, pesavano 40 tonnellate, e lì c'è anche un problema di pressione sanguigna che determina la sonorità, ed è venuto fuori che questi gigantoni facevano una roba tipo chip chip, cioè avevano una vocina ina, no? Diciamo, la paleontologia è una bellissima palestra per chi studia l'evoluzione, no? Nel senso che dobbiamo risolvere dei rompicapi di strutture di organismi che sono molto diversi da quelli attuali, e teoricamente verrebbe da dire no, non potevano funzionare. In realtà il fatto stesso che esistessero, e noi troviamo i fossili, ci fanno capire che è un problema nostro, e quindi dobbiamo risolvere le combinazioni che l'evoluzione nel corso dei milioni di anni ha messo in campo. E quello di come funzionassero certi dinosauri effettivamente è una cosa avvincente, e ci sono parecchi modelli anche computerizzati negli ultimi anni per cercare di simulare meccanismi di questo tipo. Per esempio, nel caso specifico sul linguaggio, comunque sull'emissione di suoni, no? Per farsi comprendere, c'erano dei dinosauri cosiddetti a becco d'anatra, li chiamiamo, perché sono dei dinosauri, gli adrosauri, se non erro si chiamano, esattamente, bravissima, che hanno muso schiacciato, ma alcuni di questi hanno delle creste cave sul cranio e che sono stati un mistero per molti anni. Alcuni di questi, con un nome che molti bambini magari sanno, ma si chiama Parasaurolophus, avevano questa cresta lunghissima, allungata sulla testa, che sembrava una sorta di trombone, ed in effetti si hanno ricostruito dei modelli che fanno capire che questi animali probabilmente emettevano dei suoni molto potenti, amplificati da questa struttura. Lo usavano come grammofono. Era una cassa. Un po' come un megafono, se vogliamo dire. Attenzione, arriva il tirannosauro, attenzione c'è cibo, attenzione c'è pericolo, oppure mi voglio sposare, cerco una femmina. Insomma, senta Sardella, per preparare l'intervista lei ci citava gatti e leoni. Cioè nel senso che questo osso ioide non è esclusiva di noi animali umani, diciamo, del genere Homo. No, lo ioide è molti mammiferi, anche per esempio la differente struttura dell'osso ioide nei felini determina il fatto che il gatto, che ha uno ioide più resistente, più compatto, non possa far vibrare il suono all'interno della sua gola, come fanno i leoni o le tigri, che invece hanno una struttura più flessibile e sono in grado quindi di emettere i ruggiti. Quindi anche il ruggito del gatto è impossibile, perché la struttura dello ioide non glielo consente. Per fortuna. Solo il miagolio, se no in casa non li potremmo tenere. No, sarebbe impressionante. Però tutto è commisurato e proporzionato alla grandezza del cranio, e quindi sì, sembra che c'è una parte cartilagina che permette una vibrazione ulteriore nelle pantere, nei leoni, e quindi questa struttura più flessibile consente loro di amplificare i suoni e quindi ruggire. Anche questo è una piccola caratteristica, ma che determina un risultato notevole, insomma, anche di tipo sociale, perché se il re della foresta facesse miau sarebbe ridicolo. Va bene, grazie Sardella, davvero grazie, buon lavoro, e ci risentiamo presto per le vostre ricerche. Grazie mille, a presto, arrivederci. Come fanno le automobili? Bip bip, suonano. Sentiamo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sappiamo che imitare la natura è fondamentale per essere sostenibili, per avere un pianeta sostenibile, ma si può fare ancora di più, cioè imitare quello che potrebbe fare la natura e non fa. Adesso questa roba è enigmatica, Chiara. Sì, ma la spieghiamo. Però non spieghiamola subito, lo si capirà mentre raccontiamo le cose con il nostro ospite. È qui con noi Davide Balbi, intanto buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Benvenuto. Allora, lei è fondatore di un progetto che si chiama Agricoltura 2.0 ed è anche il fondatore di una startup innovativa Impatto Zero che si occupa appunto di biotecnologia, che viene ospitata al Parco Tecnologico Padano. Perché oggi parliamo di agricoltura, di coltura idroponica, collegata però all'itticoltura, cioè sì, ai pesci. ci spieghi, Balbi? È così. Quindi sì, braccia ridate all'agricoltura. Parliamo di un ecosistema organico, naturale, una simbiosi tra piante e pesci, quindi ricreando un ecosistema che ci permette di andare oltre a quello che è la produzione che si fa a terra in modo più sostenibile. Non vada troppo in fretta. Ecco, aspetta. Andiamo a pezzettini. Intanto idroponica non diamolo proprio per scontatissimo. Raccontiamolo. Un metodo di fare agricoltura con una coltivazione fuori dal suolo, quindi si inizia a mettere le piante a contatto con l'acqua a un'altezza che non è più l'altezza del terreno, ma è un'altezza comoda all'operatore. Per lavorarci. Sì, quindi coltivazione fuori dal suolo, però è un sistema. Ma c'hanno le radici in acqua? Le piante sono, molte piante sono acquatiche. O in acqua oppure in alcuni substrati particolari che comunque rimangono sollevati dal terreno e sono molto irrigati. Sì, si utilizza sia l'acquaticità con Nutrient Film Technique, quindi c'è l'acqua che passa direttamente sulle radici, oppure si utilizzano dei substrati che può essere il lapillo vulcanico per l'acquaponica, e l'argilla espansa, dove l'acqua sale e scende areando il substrato e quindi dando aria alle radici, e poi continua questo ciclo rimandando l'acqua ai pesci. Quali vegetali intanto possiamo coltivare così? L'orticoltura in genere, tutto quello che è orto di casa, pomodori, melanzane, cetrioli, quindi tutte tantissimo. Le insalate. Io e Federico abbiamo parlato di fragole, frutti di bosco, sì, davvero. Le fragole, frutti di bosco, sì, vengono benissimo. E allora, passaggio successivo? Scusa, queste piante bisogna nutrirle, perché non è certamente. Che tirano fuori. Dall'acqua prendono l'acqua, però non basta, bisogna, nell'idroponica classica bisogna mettere dentro anche dei nutrienti. Sì, in idroponica si comprano i nutrienti e si mettono le piante, quindi è un qualcosa non propriamente naturale. Quando noi utilizziamo la parte viva del pesce, quindi c'è l'accrescimento del pesce, la presenza del pesce, abbiamo un'acqua che è ricca della respirazione del pesce e delle deiezioni del pesce. Allora ci siamo persi un passaggio. Ecco. Quindi l'acqua che lei utilizza per irrigare le sue piantine viene dall'acqua di itticoltura, quindi dentro nell'acqua ci sono i pesci, pesci, e con i pesci le loro scorie, diciamo. Le deiezioni dei pesci. Un'acqua ricca, e le piante godono di un qualcosa che si chiama il ciclo dell'azoto, che trasforma queste eiezioni, le trasforma in, tramite un processo di nitrificazione, in un alimento per le piante, nitriti, nitrati. Diciamo che il risultato è che la pianta cresce tipo il fagiolo magico, cresce di più di qualsiasi altra tecnica di coltivazione. E qui si capisce, qui si capisce quello che dicevamo all'inizio, no? E cioè il fatto che in natura queste due cose ci sono: pesci, deiezioni e piante. Lei le ha messe insieme, quindi abbiamo fatto qualcosa che la natura potrebbe fare, ma di solito non fa. Sì, qualcuno ha iniziato a mettere i pesci nelle risaie, ad esempio, con stupore. Ma questi pesci qui poi si possono... Cioè, un allevamento di pesci, di fatto? Ci sono i pesci ornamentali, come i pesci rossi e le carpe koi. E ci sono i pesci edibili, quindi si può utilizzare la carpa, la trota, l'anguilla. Quindi uno vende i pomodori e vende pure i pesci. Sì. Ma lei con la sua startup, appunto, Impatto Zero, che tipo di servizio presta? Molti chiamano, ci sono ragazzi per il primo insediamento, ci sono imprenditori che non hanno mai fatto agricoltura e che vogliono entrare nel mercato, ci sono aziende agricole che vogliono fare innovazione, e quindi diciamo che iniziamo a costruire un progetto e iniziamo a redigere una strada con il cliente verso poi quello che sarà l'impianto chiave in mano. E al Parco Tecnologico Padano però voi avete un impianto, perché si diceva appunto che alcune colture vengono su così bene, hanno questa crescita così... Un impianto allora, dimostrativo magari. A breve ce ne saranno due, uno al parco e uno con il comune di Milano sul progetto Penagri, che riqualifica il comune Porto di Mare. Porto di Mare è una zona di Milano, ecco. Milano, sì. Quindi a breve due. Va bene, allora dovremmo venire a visitarla. Sì, con la maschera e le pinne per vedere i pesi. Va bene, grazie davvero Baldi, buon lavoro allora. Grazie, buonasera. E se l'idroponica la mettessimo, ad esempio, sui tetti dei supermercati, si può. Che tipo di risultato avremmo? Ecco, ci hanno già pensato, un'idea innovativa, che viene anche da Giulia Minghetti, che è qui con noi questa sera. Giulia, buonasera. Buonasera. Allora, intanto grazie. Ricordiamo che lei è una delle vincitrici del premio della Fondazione Bracco, che ha bandito no, una... chiamata per idee di economia circolare e quindi di grande risparmio nella produzione. Lei è una delle tre vincitrici, ma hanno partecipato una cinquantina di realtà, di persone, di gruppi, e di questo parleremo più ampiamente un'altra volta. Invece era dedicato ai giovani, come sentite appunto anche dalla voce, Giulia è giovanissima, e alle start-up, quindi ai giovani innovatori. Lei infatti si sta specializzando in città e paesaggio per la facoltà di architettura al Politecnico di Milano e ha avuto questa brillante idea di fondare questa start-up che si chiama Supermarket, scritto con le lettere tutte puntate come se fosse un acronimo. Perché? Esattamente un acronimo, come dite voi. Infatti Supermarket sta per Sustainable Upper Production on Earthed Roofs. In parole povere, l'idea intende generare un sistema sostenibile, urbano integrato di produzione e distribuzione di frutta e verdura tramite appunto delle serre fotovoltaiche a coltivazione idroponica o aeroponica installate sul tetto di super e ipermercati. Allora immaginiamo i tetti di questi grandi superstore, insomma questi supermercati, centri commerciali. Voi avete pensato di metterci quindi delle serre fotovoltaiche fatte di idroponica o aeroponica, appunto, quindi coltivazioni fuori dal suolo, e però avete pensato poi di rivendere quei prodotti nel supermercato stesso. Quindi diciamo una sorta di chilometro zerissimo. Si intende proprio portare le persone all'interno delle serre a raccogliere i loro prodotti, in una sorta di processo di pick and pay. Infatti l'intento è proprio quello di attivare processi di diffusione della cultura alimentare, dell'educazione alimentare che al momento non esiste. In questo modo il supermercato diventa un po' posseduto dagli abitanti del quartiere che sono lì vicini e hanno un loro campo. Ecco, però Giulia, c'è una domanda di fondo, e cioè... Se abbiamo 1000 metri quadri, quanti pomodori, zucchine e via dicendo si producono? Perché il supermercato c'è un sacco di gente. A esaudire tutta la richiesta? Io ho calcolato anche sulla base di esperienze americane che su circa 1000 metri quadri all'anno vengono prodotte 80 tonnellate di frutta e verdura. Per cui su una realtà come Monza, che è una città nord di Milano, su una superficie totale di 33 milioni di metri quadri, circa 37.000 sono occupati interamente da super e ipermercati, per cui con un dato di 3.000 tonnellate all'anno di frutta e verdura. Per cui sono dati davvero significativi e importanti. Velocissimo, in conclusione, qualche catena insomma si è fatta avanti, si è resa interessata? Allora, per ora il progetto... è un'idea, io devo, grazie alla Fondazione Bracco, inizierò un processo di incubamento presso Speed Me Up, che è l'incubatore dell'Università Bocconi. Sì. Quindi sarà grazie a loro che io creerò un team e quindi mi approccerò alle catene di GDO. Okay. Allora ci dobbiamo risentire, giusto Giulia? Esatto. Va bene, incrociamo le dita allora. Volta. Davvero in bocca al lupo Giulia. Buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona serata. Come vi dicevamo noi in titoli, il tema centrale del Festival della Scienza di Genova era il segno, i segni, che sono milioni e siamo circondati dai segni, noi abbiamo intervistato un, dicevo prima, segnologo. Sì, mezzo. Giuseppe Nucera della redazione di Mebius ha intervistato Silvano Petrosino, che è professore di antropologia religiosa e media e filosofia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano, e parte proprio dando la definizione di segno. La definizione di segno è semplice, è tutto, è qualcosa che rinvia a qualcos'altro. L'elemento inizia a diventare interessante, questa definizione inizia a diventare interessante quando ci si interroga esattamente sulla relazione tra il qualcosa e il qualcos'altro. Il dito indica la luna, il dito si vede, la luna si vede, ciò che c'è in mezzo non si vede. Allora, interessante da questo punto di vista è l'affermazione, la definizione che dà Leibniz di segno. Il segno è ciò che noi percepiamo, è qualcosa che noi percepiamo come rinviante ad altro in base ad una nostra esperienza o a un'esperienza altrui. Quindi la tematica del segno, in particolare del rinvio tra il dito e la luna, rinvia in modo particolare alla riflessione sull'esperienza. Ma la riflessione sull'esperienza è una riflessione complicatissima. Il filosofo Ernest Cassirer, che parla dell'esperienza usando l'immagine dell'aggrovigliata trama dell'umana esperienza. Ecco, è proprio un'aggrovigliata trama. Ecco, noi generalmente si pensa al segno come qualcosa di oggettivo, in un certo senso, quando in verità è qualcosa che deve relazionarsi alla conoscenza umana, che è prettamente basata sull'esperienza sensata, quindi attraverso i propri sensi. E quindi, appunto, che differenza c'è tra ciò che noi possiamo ritenere come un fatto e ciò che invece è l'evento che caratterizza l'esperienza umana? Sì. No, ma nella nostra vita ci sono entrambi questi aspetti. È chiaro che per noi ci sono dei segni che sono oggettivi, diciamo così. È chiaro che il semaforo rosso, per noi non è che c'è un'interpretazione, il semaforo rosso vuol dire fermati. Però sarebbe un errore ridurre tutto il mondo segnico a questo tipo di segno. C'è tutta una serie di segni che sono in qualche modo ambigui, tutti i segni che noi diamo col corpo, che a volte sono anche involontari, i segni che ci arrivano dall'altro, che tu dici ma chissà, forse voleva dire questo, forse voleva dire quello. Per esempio a livello affettivo è interessante, una persona ti invita a mangiare la pizza e tu ti interroghi, dici ma era solo la questione della pizza oppure voleva stabilire con me un rapporto, avere una relazione? La pizza è segno di un interesse nei miei confronti o di un interesse per la pizza, per banalizzare? Ecco, ci sono tutte queste cose qui, sono tutte queste cose che vanno mantenute insieme, cioè non bisogna andare alla ricerca di un'oggettività ad ogni costo per tutto, non bisogna ridurre tutti i segni soltanto a segni, diciamo, esistenziali, esperienziali. Ci sono anche segni che in qualche modo possiamo considerare, come dire, oggettivi secondo la terminologia sua. Ecco, una delle differenze che è pervenuta appunto è la differenza tra esperienza ed esperimento scientifico, con questo dualismo, diciamo, appunto, esperienza soggettiva e invece una realtà oggettiva, fattuale e ripetibile. In un certo senso però anche nella scienza c'è un'esperienza basata su segni, e lo scienziato è anche forse colui che è in grado di riconoscere questi segni, non solo una conoscenza oggettiva. Ma certo, ma queste distinzioni, diciamo, servono didatticamente per spiegare. La realtà poi è veramente complessa. Cioè, la distinzione è giusta, la scienza esatta, diciamo, quella che consideriamo, si fonda sull'esperimento e non sull'esperienza. Ma l'esperimento nasce sempre da un'esperienza, cioè è la solita storia. Cioè, io vedo che l'esperimento è come dire una riduzione, una circoscrizione di una scena più ampia che quella dell'esperienza. Non bisogna pensare di poter separare in modo netto le due cose e di poter escludere una cosa dall'altra. È la grovigliata trama, questo. Per riconoscere segni, quindi, qual è il suo consiglio? L'attenzione. Bisogna essere attenzione. Ma Le Branche diceva che l'attenzione è la preghiera naturale dell'uomo. Bisogna essere molto attenti. Grazie. Come al solito, i pochi secondi per dirvi buona settimana. Sì, usiamo tutto per raccontare le cose toste. Poi, insomma, per salutare abbiamo pochi secondi. Buona settimana. A tutti e a tutte, ciao. Ciao.